Sono naturalista, ho fatto scienze naturali e praticamente questo sostanzialmente il mio lavoro insieme a quello di molti miei colleghi è quello di lavorare in un ufficio che risolve problemi per la conservazione della natura, per la conservazione dei paesaggi. Il mio intervento quindi riguarda questa cosa qui, questo argomento, analisi delle minacce, ovvero cosa possiamo fare noi per risolvere dei problemi che riguardano l'impatto sulla natura, sulla conservazione della natura. Allora, l'argomento che tratterò, e sono contento di essere qui, è quello di analizzare le minacce alla conservazione, alla natura, quindi riguardano l'impatto sulla natura, e lo faremo per quanto riguarda l'area del litorale romano, quindi sul Tirto, l'area tiberina. Ecco, possiamo andare avanti. Ecco, sostanzialmente, visto che si tratta di un incontro multidisciplinare, quindi siamo storici, geografi, naturalisti, biologi, è importante condividere i linguaggi, quindi nel mio intervento io cercherò di farvi capire come noi ragioniamo per risolvere i problemi. E quando ci sono tante discipline differenti, tanti linguaggi differenti, c'è il pericolo di essere incerti nella trasmissione del messaggio, e quindi è importante che ci siano dei concetti condivisi, dei valori condivisi, ok? E qui vi faccio capire come ragioniamo noi nella conservazione della natura. Allora, sostanzialmente, quando si conserva la natura e i paesaggi, noi abbiamo il bisogno di capire il valore e quindi di condividere il valore. Poi abbiamo bisogno di individuare le minacce, i problemi, e poi dobbiamo definire delle risposte in termini di strategie, quindi gestione, management, di conservazione e di planning, di pianificazione, tre cose: gestione, management, planning e conservation. Quindi queste sono le nostre risposte, no? Allora, sostanzialmente, quindi è V, valore, M o P, minacce, e risposte, strategie. Per quanto riguarda le scienze ecologiche, per valore abbiamo 4-5 livelli, dobbiamo ragionare che cos'è il valore della natura, che cos'è. Allora, noi ecologi ragioniamo in questo modo, partiamo per livelli gerarchici, quindi si parte dal livello che a noi interessa, il paesaggio, che è formato sostanzialmente da ecosistemi, e poi gli ecosistemi comprendono comunità, cioè gruppi di specie, e ogni comunità comprende popolazioni e specie, ok? Quindi sostanzialmente, ecco, perfetto, vedete, sostanzialmente la logica che noi abbiamo per conservare, per risolvere i problemi è: definiamo un valore, definiamo il problema, la minaccia, e poi definiamo la nostra strategia. Perfetto, grazie, e possiamo andare. Ecco, allora, vedete che sostanzialmente la natura è multiforme, è complessa. Cosa vogliamo conservare? Che cosa? Allora, è importante per noi ecologi, per noi naturalisti, capire qual è il livello gerarchico, cioè se ci riferiamo a un livello di paesaggio, di ecosistema, di comunità, di popolazione o di individuo, dall'individuo ai gruppi di individui, alle comunità, quindi tutti gli uccelli, tutti i mammiferi, tutte le piante, di un ecosistema che sta in un paesaggio. Possiamo andare. Ecco, per quanto riguarda il Tevere, è importante sapere cosa conosciamo, qual è il valore di biodiversità e di natura. Allora, a livello di paesaggio, ecosistemi, comunità, popolazioni, individui, allora, a livello di paesaggio abbiamo tanti paesaggi, quindi c'è il costiero, il paesaggio delle bonifiche, il paesaggio urbano, il paesaggio fluviale, quello trasformato dalla campagna romana. E tutte queste informazioni, molto articolate, sono già presenti in documenti, quindi abbiamo un alto livello di conoscenze attuali. Prego. A livello di ecosistema, anche lì noi abbiamo una cartografia molto, diciamo, avanzata, abbiamo tante informazioni. Sostanzialmente, vedete che nel paesaggio ci sono tante tipologie di ecosistemi, e sostanzialmente ci sono quelli naturali, e sono sostanzialmente, siccome è un paesaggio di bonifica, no, di trasformazioni di ambienti umidi, abbiamo un paesaggio importante umido, di marismas, no, di ambienti umidi in generale, quindi c'è Tevere, tante paludi, forestale, queste sono tutte foreste, macchie, e anche paesaggi seminaturali di successione e artificiali. Oh, guardate questa qua, questa è importante. Questo è il problema. Il problema, la frammentazione, in inglese l'habitat fragmentation, no? Estremamente frammentata la natura, la naturalità, quindi gli ecosistemi. Ecco, possiamo andare avanti. A livello, vedete, di comunità, quindi gli ecosistemi comprendono tante cose, tanta natura, e a livello di comunità, le comunità vegetali sono importanti e sono tanto diverse. Vedete, prima c'erano gli ecosistemi, ma in realtà gli ecosistemi sono differenti tra di loro. La diversità e la biodiversità è anche tra ecosistemi. I colori diversi implicano tante comunità all'interno di ecosistemi diversi. Anche qui abbiamo delle cartografie molto avanzate, banche dati, no? Prego, possiamo andare. Oh, a livello inferiore di popolazioni di specie all'interno di comunità e di ecosistemi abbiamo tante cose. Sostanzialmente quello che è importante è riconoscere questa componente qui, perché si tratta, e parlo solamente di animali superiori, di vertebrati, quindi i vertebrati sono ancora di più, ma questo è perché l'ambiente, quell'area è molto importante come tutte le zone umide per la migrazione, quindi è un corridoio a proposito di trasporti. Trasporto naturale di uccelli, soprattutto, non solo, che si muovono e si spostano dall'Africa, no? Va bene? Un problema, anche qui a questo punto abbiamo dei problemi nel paesaggio, negli ecosistemi, nelle comunità, abbiamo un problema anche a questo livello, l'isolamento da frammentazione, tante piccole popolazioni di specie isolate l'una dall'altra, e quindi non c'è trasporto, ma di individui, di animali e di vegetali. Prego. Allora, quindi c'è il problema. Il problema qual è? Il problema è un problema alto, che è la frammentazione, e un problema puntiforme, che sono i disturbi puntiformi, antropogeni. La frammentazione ha portato a isolare tutto, ma in ogni punto ci sono incendi, caccia, bracconaggio, tanti piccoli problemi, stress idrico, ipersalinità, pascolo, ok? Questo, quindi, ci sono, l'ecologia applicata, la conservazione, che cerca di risolvere quei problemi in tanti modi. Per esempio, per risolvere il problema della frammentazione avete sentito parlare di ecological network, no? Di corridors, di corridoi, e questo è un modo per risolvere il problema alla scala alta. Ma alla scala puntiforme hanno sviluppato negli anni la threat analysis, cioè analizzare in modo standard le minacce punto per punto. Ecco, cos'è una minaccia? Un disturbo? Cos'è? Che cos'è? Allora, esistono delle definizioni. Innanzitutto, in natura i disturbi sono molto importanti. Un fiume che esonda e invade un'altra area, quello è un disturbo naturale che però è visto all'interno delle dinamiche naturali, quindi fa parte dei processi, no? Ed è il disturbo naturale, non la minaccia del disturbo antropico. Questa è la definizione. Cos'è un disturbo? È un evento, un processo che altera le componenti ambientali. Componenti sono individui, popolazioni, comunità, ecosistemi, paesaggi. Altera, trasforma, e lo fa attraverso un regime, ovvero attraverso una sua estensione, una durata nel tempo, una frequenza o un'intensità. Ok? Queste cose qui per noi naturalisti, biologi, possono essere quantificate. Quindi noi possiamo quantificare il problema. Prego. Poi è stata anche dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, ma anche dalle scuole dell'ecologia, è stata definita che cos'è proprio la minaccia, ovvero il disturbo provocato dall'uomo. Ci sono tante definizioni, è un'attività umana, un processo che ha causato, sta causando o causerà una trasformazione di componenti ambientali, un impatto sulle popolazioni, le comunità, gli ecosistemi. E qui c'è, questo è molto importante per noi, per chi lavora, perché ci consente di mettere in chiaro il problema. Se io ho biodiversità, un valore, devo capire qual è la minaccia. Spesso però in natura le cose, nel territorio, le cose sono complesse e spesso la minaccia diretta dipende da una minaccia indiretta e da un fattore magari storico e a monte, possiamo andare. Ecco, esiste fino a 20 anni fa, gli ecologi, quando volevano conservare la natura, lo facevano in modo descrittivo. C'è un problema, un incendio, un pascolo, così. Adesso noi abbiamo la possibilità di quantificare attraverso innanzitutto un nome, possiamo dare un nome al problema, un nome standard, universale. Ad esempio, Transportation SPR, questa è un tipo di minaccia, oppure hunting, caccia, bracconaggio, c'è una definizione. E questa è una nomenclatura, una tassonomia chiara. Prego. E poi noi possiamo costruire tutta la rete dei problemi. Questo è il valore, che può essere non solo biodiversità, anche umano e legato alla biodiversità, un valore, un bene comune, no? Un ecosystem service, un valore. E questo è il primo impatto che dipende. Questo chiarifica tutto. E noi poi possiamo ad ogni minaccia assegnare un valore di intensità, durata, frequenza, estensione. Quindi noi possiamo capire le priorità. Prego. Questo nel Tevere, per quanto riguarda il Tevere, noi adesso possiamo proprio definire con nome ogni minaccia. Calpestio sulle dune, l'inquinamento, tantissime, adesso l'erosione, i movimenti terra, il beach litter, la plastica, tutti i problemi di impatto devastante, prego. E non è finito. E poi urbanizzazione, questa è una valle del Tevere, l'ultima cosa, perché poi la politica è legata al problema. E la chimica in agricoltura, e via, gli incendi. Questo fu un catastrophic event del 4 luglio 2000 che devastò praticamente una foresta mediterranea. E su questo noi abbiamo scritto, studiato. Prego. E ancora, ognuno è un problema e ognuno necessita di una risoluzione, ma non è parlando, descrivendo, no, quantificando, perché il problema si deve, il nemico, come si dice, il nemico bisogna conoscerlo, va bene? Prego. Ecco, questo è un caso studio, abbiamo fatto un lavoro in un'area protetta, questa è una piccola wetland, una piccola zona umida a nord di Roma, vicino Roma, prego. 40 ettari, è una, il valore, biodiversità, individui, popolazioni, comunità, ecosistemi, no? Problemi. Allora, il manager, chi gestisce, non deve solamente dire lì c'è un problema, deve sapere quando c'è, quanto dura, quanto è intenso, quanto è frequente e quanto è esteso. Così noi capiamo la priorità. Prego. Ecco, per quanto riguarda noi in quell'area, questo è proprio il mio lavoro, io mi occupo di quell'area, sono il manager di quell'area, il gestore, e sostanzialmente abbiamo dato un nome ad ogni problema, ad ogni minaccia, habitat conservation, pollution, questa è legata al problema dei trasporti, al problema dell'argomento del convegno, e all'impatto sulla fauna e non solo, anche sulla vegetazione. E l'alterazione di tanti, alterazione dei regimi di disturbi, per esempio quest'area umida sta morendo perché sta collassando perché c'è stata un'alterazione del regime non naturale del disturbo, ovvero dell'apporto di acqua dalle zone circostanti perché i canali sono stati interrotti, quindi c'è un'alterazione profonda ed è un altro disturbo, 5-2, vedete, ci sono proprio i nomi e i codici, prego. Abbiamo fatto un sacco di conti, abbiamo chiesto, abbiamo misurato, in modo tale che abbiamo capito quali sono le prime quattro. Pensate cosa può fare un gestore, di fronte a tanti problemi. Uno che manager dell'area, che fa? Che non sa che fare, perché sono tanti. Allora è importante dare le priorità e quindi enumerando, quantificando, noi possiamo stabilire qual è la priorità? Vedete, infrastrutture lineari, transito di veicoli a motore sulle dune, aircraft leggeri, quelli che volano sopra, e così via. Guardate quanti, le specie antropofile, le specie aliene, lo stress idrico, la caccia, gli incendi, lo sfalcio, e così via. Prego. E poi abbiamo fatto la rete, questo è il caso studio, che è Case Study, no? Lo studio, il caso studio, cioè il bracconaggio, da che dipende? Questo, oppure impatta su questo e questo. Prego. Oh, è possibile mappare il problema. Problem mapping, threat mapping. Allora, noi possiamo, e questo è stato inserito nel documento ufficiale, il documento ufficiale del management di quell'area, dove stanno, no? Ricordate, estensione, durata, frequenza, intensità. Dove sta il problema? Prego. E lo abbiamo fatto uno per uno. Un altro caso studio, invece, sempre nell'area del Tevere, è sul largo di Traiano, una zona, prego, possiamo andare da un... Ecco, questa zona è stata prevista la costruzione di una nuova infrastruttura vicina a un'area di alto valore conservazionistico. Questo è il lago di Traiano, che è importante dal punto di vista storico, archeologico, e anche perché gli uccelli vanno qui, arrivando dall'Africa, arrivano e si fermano. C'è questa infrastruttura e noi, prego. Ecco, questa è un'area rilevante, questa è una foto aerea. Vedete, è un'area che è una ZPS perché si fermano molti uccelli migratori. Prego. Ecco, allora, per conoscere l'impatto della nuova strada esiste uno strumento tecnico che innanzitutto la procedura è la valutazione di incidenza, si chiama, e che si fa ogni qualvolta che è prevista un'opera, un'attività in un sito di interesse naturalistico, che può essere fatta in vari modi. Un modo per conoscere se c'è un impatto in un'area e se quell'impatto è legato a quel problema, ovvero costruisco una strada, cosa succede agli uccelli? Diminuiscono. La diminuzione degli uccelli dipende dalla strada o dipende anche da altre cose? Noi dobbiamo essere su questo chiari. Esiste questo disegno, questo è un protocollo di lavoro, un disegno di campione sampling design, che si chiama BACI, Before After Control Impact, ovvero questa è la mia zona di valore, no? Costruisco la strada e questa è la zona di impatto, va bene? C'è la strada prima e dopo, però io per sicurezza prendo un'altra zona vicino dove non c'è la strada prima e dove non verrà fatta la strada dopo, perché io posso osservare una diminuzione della biodiversità, ma potrebbe non essere difesa dalla strada, potrebbe essere difesa da altri fattori. E allora io lo vedo qua, perché se io vedo che anche qui diminuiscono gli uccelli, e allora non c'entra nulla la strada, ok? Non so se sono stato chiaro. Prego. E vabbè, abbiamo fatto un sacco di dati, raccolto dati prima e dopo, sostanzialmente l'impatto non c'è, perché tutta l'area ormai è trasformata a scala di paesaggio, quindi una strada in più o una strada in meno non cambia tanto il nostro aspetto. Ho finito. Sostanzialmente il modello che noi usiamo, questo è semplicemente il nostro modello logico per cercare di risolvere i problemi. Allora, in pratica, vedete, noi è importante che adottiamo questa logica. C'è un problema, e allora dove sta questo problema? E quindi analizziamo il contesto e facciamo l'analisi delle minacce. C'è un valore, c'è una minaccia. Quanto è impatta quella minaccia, quanto è estesa, il regime, no? Quanto è estesa, dura, frequente. Dopodiché definiamo un obiettivo. Cosa facciamo? Iniziamo quindi la fase di pianificazione. Troviamo delle soluzioni, ok? Ma spesso ad ogni problema ci sono più soluzioni possibili, e quindi c'è la fase che diceva anche la collega di decisione, quindi obiettivo, soluzioni, decisione, ok, processo, risolviamo il problema, risultati, ok. Poi in realtà la cosa è molto più articolata, ma comunque questo adesso non dobbiamo spiegare questo, ma sostanzialmente per dirvi che se si vuole risolvere un problema è bene adottare una logica chiara, perché altrimenti i problemi non possono non risolversi. Grazie.